brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Dopo giorni e giorni di Salone del Libro, dopo fortunate e gloriose premiazioni ai 7 autori che hanno avuto la palma del riconoscimento da parte di Melog e avranno pubblicato i loro libri e sui quali avremo tempo di darvi particolari interessanti quando avremo formalizzato proprio l'aspetto della pubblicazione, tornando nella nostra consueta sede romana e passeggiando per le vestigia di questa città che è fatta sì di rumore, fatta di traffico, fatta di modernità, contemporaneità, contraddizioni, ma fatta anche di tanti elementi sotterranei. Ogni volta che io esco dalla metropolitana a Piazza della Repubblica e faccio attraverso le rovine romane, i giardini, c'è un grande cartello dove passarono i romani, è ricresciuta l'erba. Beh, immagino che sotto i miei piedi ci saranno stratificazioni e stratificazioni di scheletri, di ossa, di vestigia del passato, di residui umani che stanno lì, sonnecchiano in attesa che qualcuno li scopra e qualcuno dia notizie su di loro. Ognuno di noi ha una grande chance di sfuggire alla condanna dell'oblio. Il fatto che sul nostro corpo rimangono impresse, stratificate, raccontate molte informazioni sulla nostra esistenza. Non è detto che il mondo sia interessato poi a riscoprire nelle nostre povere ossa ciò che noi fummo, ciò che noi pensammo, quello che mangiammo, che ha determinato e accelerato la nostra fine. Ma ci sono dei momenti nella storia degli umani in cui è importante, fondamentale. Si trova soltanto un piccolo pezzetto d'osso sbruciacchiato e bisogna capire dietro quell'osso cosa c'è, a chi appartenesse, come mai è stato bruciato, come mai si trova in quel posto, come mai potrebbe forse corrispondere a un elenco di persone scomparse. E devo dire che esiste un racconto contemporaneo delle vicende umane che è la fiction televisiva, la serialità dei telefilm americani, ma anche le loro rivisitazioni italiane, che spesso fanno materia del loro narrare, filo rosso del loro raccontare, proprio la capacità meticolosa, scientifica di riconoscere da un frammento di corpo umano quale sia la storia dell'essere umano che vi sta dietro. Ci siamo molte volte anche noi appassionati a questo tipo di storie, ma la realtà è molto diversa. Lo vediamo dai grandi delitti televisivamente raccontati, dalle grandi disquisizioni negli studi televisivi, dai plastici delle case e dei luoghi del delitto, dagli oggetti contundenti, dalle macchie di sangue, da quello che ormai è diventato materia di chiacchiericcio, la formula per fare il ragù o la ricetta della pasta alla puttanesca. Anche ogni normale teleutente sa tutto sul DNA, sulle tracce ematiche, sulle possibilità di datare la scomparsa di una persona. Questo è giusto che accada, è giusto che noi pensiamo che esista ormai un progresso scientifico così avanzato che sia così facile riconoscere e stabilire quelle che sono le fattispecie reali su un residuo di essere umano. Ma vedo che, nonostante il fatto ci siano milioni di persone che ogni giorno sfilano, e venendo proprio da Torino, di fronte alla sacra icona della Sindone, ancora ci sono dei dubbi sull'attribuzione, dei dubbi che vanno in un arco di tempo di un migliaio di anni, quindi evidentemente il progresso scientifico in questo caso non dà poi così ferre e assolute certezze. Del cadavere rimane soltanto il busto parzialmente bruciato. Gli arti, così come parte della testa, sono stati divorati dai cani. A bordo dell'auto c'era un uomo completamente carbonizzato che non è ancora stato identificato. Corpo di un uomo quasi completamente carbonizzato è stato trovato questa mattina nel Napoletano, vicino a Santa Anastasia. Il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno di un'auto in fiamme nella zona industriale di Mazzocchio, tra Fossanova e Priverno, in una stradina isolata. Questo è soltanto un piccolo blob, un riassunto di quella che è la frase tipica del ritrovamento del cadavere, ma è accaduto anche ultimamente. Ogni tanto si trova una testa, un piede, un pezzo d'uomo, un cadavere riaffiora, dei sacchetti con dentro pezzi umani vengono trovati da qualche parte, poi viene trovate le donne decapitate, gli uomini depezzati, vengono trovati continuamente, e continuamente ci sono uomini che fanno fuori, uccidono, eliminano altri uomini e devono disfarsi, ahimè, dei residui organici della persona che hanno soppresso, che non è più un essere umano ma diventa soltanto un mucchio di materia in via di disfacimento. Beh, ci sono persone che dedicano la loro vita, la loro esistenza, la loro passione professionale proprio a ritrovare, a riscoprire, a ridare nome a questi reperti, a questi pezzi di materia organica che furono uomini. Una di queste, l'abbiamo già sentita varie volte nella nostra trasmissione e la salutiamo questa mattina volentieri, è Cristina Cattaneo. Cristina, buongiorno. Buongiorno. Cristina Cattaneo, la ricorderete, è medico legale, patologa forense, ma soprattutto è una scrittrice, è una grande romanziera. Lei trasforma ogni pezzo d'osso, ogni residuo di tessuto umano, ogni dente, ogni brandello di cadavere carbonizzato che viene classificato appunto nel suo laboratorio in una storia. Il suo ultimo libro, che ho fresco di stampa in mano, è Certezze provvisorie, uscito per Mondadori Strade Blu, il cui sottotitolo spiega ancora una volta quella che è la teoria di Cristina Cattaneo, il vero volto della scienza, delle scienze investigative forensi. Cristina, ribadisci in questo testo quello che tu hai sempre detto, che la tua è una fantastica professione, è un mestiere che al di là dell'orrore potrebbe suscitare in chi non conosce a fondo, approfonditamente tutte le meraviglie del tuo lavoro, è un mestiere che in realtà dovrebbe come prima regola dire: noi non abbiamo mai una certezza assoluta. Assolutamente, penso che sì, questo sia il libro che dimostra la stanchezza del reiterare questa cosa, soprattutto adesso. Stiamo vivendo un momento di grandissima crisi da un punto di vista medico-legale. Un po' la colpa è anche, io l'ho detta, non vorrei sempre accodarmi che dà sempre le colpe alla televisione, ma da una parte viene rivendicato un principio di certezza scientifica assoluta, quasi una splendida e meravigliosa sicurezza che in realtà con quei macchinari fantastici, con quei bei dottori abbronzati, con quelle ipertettute dottoresse si riesce a arrivare da un frammento d'unghia alla storia di un essere umano, ma in realtà non è così. Assolutamente no. Adesso ci sono tantissime domande che possono trovare risposta all'interno del nostro lavoro, quindi non è tutto da buttare, però c'è un po' da riequilibrare quella che è la nozione, l'idea che la gente si fa, e tra gente intendo anche magistrati, giudici, avvocati e così via, di quella che è l'attività scientifico forense. E penso che una grossa fetta del misunderstanding dipenda da questo effetto CSI, tale per cui si presume che si possano fare tantissime cose, si possono avere assolute certezze, mentre non è così. Addirittura devo dire che la causa di questo momento negativo non è soltanto ciò che succede nei salotti televisivi, per carità, però devo dire che addirittura tante volte è il singolo caso che innesca un progetto di ricerca, proprio perché ogni caso, per esempio prima si parlava appunto di frammenti carbonizzati, frammenti carbonizzati di un accoltellato ad esempio, possono portare la domanda di che tipo di strumento è stato e quindi la necessità di ricostruire bene le forme di quelle lesioni. Ma come si fa a individuare, scusami, la lesione da coltello quando non esiste più un tessuto e sta tutto carbonizzato? Mi viene la domanda. No, l'osso è un buonissimo riproduttore delle forme delle lesioni, a volte ancora meglio della pelle, quindi sull'osso, se lo strumento ovviamente ha attinto l'osso, posso avere una buona replica di ciò che è stato lo strumento contundente. L'unico problema è che, per esempio, se questo cadavere è stato dato alle fiamme, c'è pochissima ricerca scientifica che mi dice che effetto hanno le fiamme su questa lesione, si ristringono, potrò dire esattamente che tipo di strumento era anche se è arrivato a 800 gradi questo frammento di ossa, e quindi questi casi singoli portano a grandissimi progetti di ricerca, ma al momento attuale a volte io non riesco a dare una certezza e quindi il mestiere diventa molto frustrante e molto entusiasmante, ed è per questo che io ho tenuto a mettere anche nel libro un capitolo che riguarda proprio la ricerca scientifica in ambito forense. 800240024, visto che farete senz'altro parte, perché statisticamente non può essere così, dei grandi appassionati di fiction investigativa, di fiction necroscopica, visto che seguirete i seguitissimi programmi televisivi in cui i grandi delitti, i delitti irrisolti, vengono anche mostrati sotto questo aspetto scientifico, visto che avete una delle persone che in Italia ha maggior titolo a parlare. Io sono stato a trovare Cristina Cattano nel suo laboratorio, ho visto la macchina di smontaggio e rimontaggio dei residui umani, dalle ossa messe dentro scatoloni, ai lettini dove ricompongono un cadavere preso dentro la terra, alla stanza della bollitura dei cadaveri in cui bisogna tirare fuori le ossa pulite. È tutta una catena di smontaggio in cui l'essere umano si rivela per quello che è una macchina che quando non è più animata deve essere lentamente rottamata, anche per capire il perché non funzionava, non ha funzionato o qualcuno ha smesso di farla funzionare. Ciao Joseph, mi hai cercato? Sì. Credevo non ci fossero impronte sull'arma del delitto. È la prima volta che vedo una lampada abbronzante usata come arma. Stavo per mandarla al deposito prove quando i miei ultravioletti l'hanno illuminata. Guarda qui dietro, vedi quei puntini? Cosa sono? Dei micropunti della data dot. Danno un identificativo univoco. Proprietario e oggetto sono legati da un codice alfanumerico. I micropunti vengono applicati con un liquido adesivo contenente una traccia agli ultravioletti. E come possono aiutarci? Ho cercato il proprietario sul sito della datadot e indovina? La lampada è di Brandon Hess, il fidanzato di Nikki. Hai appena confermato la mia teoria. Nikki questa non la usava. Cristina Cattano, quando ti venni a trovare nel tuo luogo di lavoro, notai un fatto che è anche una grande lezione etica, una grande lezione spirituale, se qualcuno la vuole prendere così. Allineati nei tuoi scaffali c'erano crani di persone uccise anche 5, 6, 7 anni fa, assieme a crani di guerrieri romani di secoli fa, assieme a crani di santi. Questa varietà di entrate nel tuo laboratorio, mi spieghi un pochino come accade che un ex essere umano venga ad essere portato a pezzi nel tuo laboratorio, attraverso quali sono le vie di approvvigionamento? Uno sono quelli, diciamo, i corpi del delitto, ma poi ce ne sono anche altri. Sì, assolutamente. Dunque, la grossa fetta del laboratorio si occupa di resti umani e quindi quello che tu hai visto ovviamente sono che gran parte di questi scatoloni contengono ossa di resti ancora non reclamati, quindi appartenenti a persone ancora da identificare che sono state vittime di omicidio. Una parte del laboratorio, siccome è un laboratorio che si occupa di identificazione di resti umani eccetera, è dedicata anche a ciò che è la ricerca di tipo storico, di tipo archeologico, quindi ci vengono commissionate o studiamo per motivi di ricerca anche scheletri che provengono da necropoli antiche, romane, oppure scheletri ad esempio di personaggi storici o di persone vissute in passato, ad esempio le cosiddette reliquie dei santi che ci vengono date per appunto approfondire un pochettino per vedere se poteva corrispondere a quel santo, no, e così via. E c'è anche un problema di ricostruire un'iconografia. Tu una volta mi hai raccontato, ti portando il teschio di un santo, a cui dovevano poi riattribuire delle statue o dei dipinti. È possibile in qualche maniera ricostruire dal teschio un'ipotesi di fattezze poi dell'essere a cui è appartenuto? Sì. Allora, si riesce con delle metodiche estremamente grossolane ad arrivare a un volto probabile, ma attenzione, questo non deve essere usato come uno strumento di identità, quindi se si legge in giro che un personaggio storico è stato identificato perché, in quanto tale, perché la ricostruzione del volto assomiglia ai ritratti, ai quadri dell'epoca della persona, non è possibile, non è una metodica identificativa, è una metodica che serve solo per richiamare appunto la fisionomia di una persona, poi la persona viene identificata con certezza, poi con DNA e con altri metodi. Perché scusa, fammi capire nel mio essere rozzo ricostruttore poi questa cosa. Le ossa è qualcosa di stabile, quindi si rimangono nel tempo, è possibile vedere come sono fatte, ma i tessuti molli che si appoggiano sopra le ossa possono assumere configurazioni di tutti i tipi sul volto. Assolutamente, soprattutto sul volto. L'anatomia ci dice, adesso poi ci sono degli studi molto interessanti fatti con l'età, che ci dice quanta carne c'è sullo zigomo, sulla fronte, però ricostruire, ci sono anche delle regole per ricostruire un naso dalle ossa che stanno sotto, per vedere un naso lì in su piuttosto che ricurvo, però queste regole sono, come tutte le cose in biologia, hanno dei grossi limiti e quindi non è detto che la faccia che poi esce fuori è la faccia è uguale alla faccia della persona in vita. Pensa, Cristina, quanto sarà difficile fra le tue colleghe di che lavoreranno fra un secolo, ridentificare qualcosa quando oggi c'è un'ipoteca così forte rispetto alle fattezze cosiddette naturali e quelle rifatte. Esattamente, però temo che insieme alle ossa residueranno altre cose che ci daranno un'idea che l'errore potrà essere ancora maggiore. Quindi sarà più facile identificarlo per un'anatomopatologa degli anni 2050 attraverso le protesi in silicone che nei residui organici un essere umano. Hai capitato di trovare qualche scheletro, qualche insomma dei resti umani magari in decomposizione con delle protesi e quindi... Ecco, comincia a resumare i primi cadaveri con le tette finte. Certo, incominciano a essersi chiaro, sono più, c'è qualcosa in più che si può dire, ecco. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Cosa ha da dire a Cristina Cattaneo? Ma io vorrei fare una domanda. Intanto sono Alessandro, appunto chiamo da Empoli in provincia di Firenze. Beh, io ho un negozio di coltelleria e sono un arrotino, per cui immaginatevi voi le lame che quotidianamente mi passa sotto le mani. Quindi al riguardo io ho letto il libro della signora Cattaneo, Crimini e farfalle. Ho letto anche di Billy Bass, La vera fabbrica dei corpi, che penso che la signora Cattaneo conoscerà. Ecco, nulla, volevo fare una domanda e dirle e chiederle come mai non avviene una balistica sulle lame, quindi una ricerca sulle metodologie per esempio di affilatura che potrebbero dare... Cioè lei si sta offrendo come consulente, mi sembra di capire. No, anche volentieri, io sono a disposizione, quindi io le mie indagini diciamo che scontate, perché facendo questo mestiere ovviamente mi sono anche... Guardi, le dirò in particolare, che non so se posso dirlo, ma lo dico, uno degli assistenti di Cristina Cattaneo è un esperto di coltelli, addirittura fabbrica lame, pensi quanto esperto. Cristina, allora, ho scoperto un tuo segreto, ma è vero, uno dei tuoi assistenti è talmente esperto che mi ha fatto vedere che lui è capace a costruirli i coltelli. Sì, è una casa, una serie di coltelli, poi li studia, insomma, sì, è un esperto. No, signora ha assolutamente ragione, nel senso che il problema dei coltelli, uno dei problemi è studiare il segno lasciato da un coltello è infinitamente più difficile che studiare il segno lasciato da un proiettile, perché ormai la balistica ha le sue certezze, che adesso stanno diventando incertezze perché le polveri stanno cambiando, però ci sono tante cose che si possono dire che sono state studiate sui colpi d'arma da fuoco lasciati nel cadavere. Sulle armi bianche, cioè sui coltelli, sulle lame, sulle seghe ad esempio utilizzate per depezzare i cadaveri... Ma avete mai usato la motosega come strumento? Di depezzamento del cadavere? Ma è scomoda, fa tanto rumore, quindi in genere sono tutte cose un po' più sofisticate, o seghe a mano oppure anche coltelli con la disarticolazione. Però è giustissimo ciò che dice il signore, questo è uno dei nostri grossi limiti, cioè anche conoscere esattamente che forme lasciano e che residui di metallo lasciano queste lame sulle ossa, dico sempre sulle ossa perché poi i tessuti molli si decompongono, quindi le ossa rimangono spesso l'unica speranza di trovare qualcosa, è assolutamente giusto. Quindi cioè, per questo bisogna fare uno studio personale, non esiste letteratura in questo, è giusto quello che ho visto. Io ho visto proprio studiare i coltelli, forme di lame, la provenienza regionale del coltello, ogni lama lascia il suo segno, ogni regione produce il suo coltello, ogni acciaio ha il suo tipo di tempera. Quindi... E poi che le affilature diverse, come agiscono, come fai a dire se una lama è stata affilata, se è poco affilata, cioè, è molto interessante, c'è pochissimo in ambito. Per quello che tu sai, che se ne vengono usati più spesso coltelli da cucina, cioè armi che si trova sotto mano, o proprio il coltello, quello costruito e pensato arma? No, coltelli di facile reperibilità, quindi coltelli da cucina. Si vendono ovunque, ieri stavo alla stazione aspettando il treno, e guardavo una coltelleria che era piena di sciabole, coltelli, macete, le armi bianche vengono vendute comunque e dovunque, quindi se uno deve ammazzare una persona fa prima comprarsi un coltello che andasse a cercare un'arma da fuoco. Alessandro, Alessandro, buongiorno. Buongiorno, sono un'esperienza che magari a volte la realtà non è così vera come ci vogliono far vedere. Ci spieghi allora qual è il suo punto di vista. Io ho fatto qualche anno in attività in polizia, prima come sostitutiva alla leva e poi dopo sono rimasto perché studiavo all'università e era comodo per me. Purtroppo quello che si vede oggi, questi laboratori avveniristici con pareti lucide, tutte al neon e via dicendo, la realtà purtroppo non era quella. Descriva com'era la realtà per quello che ha conosciuto lei. Ma le dico, in uffici dove addirittura dovevamo fare la colletta per comprarci le cartucce stampanti, altri colleghi che si prendevano il proprio portatile perché non era disponibile quello messo dall'amministrazione, oppure le dico anche questo, adesso ad esempio gran parte dell'attività che svolge la scientifica nelle questure pur essendo impegnativa, purtroppo è impegnatissima nel prendere impronte digitali e sempre con le mani sporche di inchiostro per extracomunitario o altro. Non è la scientifica che a volte si vede in TV, questo le posso assicurare, non è assolutamente così. Cristina Cattaneo, certo. Ritrovi qualcosa dalla tua esperienza, quello che dice il nostro ascoltatore poliziotto? Sì, assolutamente, cioè non è quello che vediamo, purtroppo per quello che riguarda le potenzialità che ci sono nei telefilm, anche per fortuna, perché tutto questo ci porta ad utilizzare più inventiva, cioè le situazioni che a volte sembrano un po' più povere ti portano a fare delle cose in più, però ha toccato una cosa molto importante, che è il problema dei soldi, dei finanziamenti, e devo dire che le scienze forensi e soprattutto la medicina legale è un po' la cenerentola della medicina e quindi ha pochissimi finanziamenti, ci sono pochi soldi non soltanto per gli allestimenti dei laboratori ma anche a livello universitario per la ricerca, e questo è un grosso limite. Mi sembra paradossale, poi continueremo dopo le informazioni della borsa, perché oggi vedo che nei grandi delitti, nei grandi processi legati a fatti di sangue, piuttosto che l'attività di intelligence, sembra prevalere l'aspetto proprio medico-legale, si parla soltanto di reperti ematici, di tracce di arma, di impronte e via dicendo, e quindi probabilmente è alla base delle speranze anzi riuscire a risolvere un delitto. Melog 2.0. È apparso lucido e tranquillo e ha risposto alle domande dei magistrati. Un'ora e mezzo di interrogatorio in cui Luca Bianchini ha continuato a negare. Sono innocente, vi state sbagliando, ha detto. Voglio rifare il test del DNA alla presenza di un mio perito di fiducia. Bianchini quindi nega di essere l'autore dei 3 stupri di Roma, nega di essere quell'uomo ripreso in un garage romano nel tentativo di una violenza, nega. E aggiunge, mi stanno rovinando la vita, se non mi crederanno mi ucciderò. Per gli investigatori è proprio la prova del DNA ad incastrarlo. Il suo profilo genetico, dice il capo della squadra... 800240024, riprendiamo a parlare con Cristina Cattaneo, medico legale, patologa forense, autrice di Certezze provvisorie, il suo ultimo libro, uscito per Mondadori, è l'ultimo di una serie di racconti, romanzi, in cui Cristina Cattaneo, che di mestiere analizza cadaveri, pezzi di cadavere, residui di esseri umani per determinare o chi l'ha uccisi o chi essi siano o datare appunto la loro età. Cristina Cattaneo, evocato questo termine di cui sembra che tutti sappiamo tutto, DNA, quanto è importante, quanto è fondamentale per te il DNA e soprattutto quali sono i margini di certezza del DNA? Qui stiamo parlando di violenza carnale, ma ci saranno altri mille campi. Sì, no, ci sono tantissimi campi di applicazione. Il DNA è uno strumento che ha creato la rivoluzione delle scienze forensi, nel senso che direi che negli ultimi 20 anni, ormai quasi 30 anni, è quello che comunque ci dà moltissime informazioni. È chiaro che è uno strumento potentissimo che ti può tirar fuori i geni da una macchia di sangue, da una traccia di sperma, addirittura magari da un'impronta digitale, però attenzione, anche il DNA ha dei limiti, ha dei margini, si degrada, il grosso problema del DNA è quello della contaminazione, quindi è chiaro che su un tavolo ci sarà il DNA non soltanto della persona, dell'ultima persona che c'è stata, che ha ammazzato magari la vittima vicino al tavolo, ma di N altre persone passate da lì, quindi chiaramente anche il genetista dà un tassello fondamentale per le indagini, che però è un tassello che va a tessera, che va inserita in un mosaico molto più ampio. Ecco, ma come lascio tracce DNA? A parte i fluidi organici, il sangue, via dicendo, anche semplicemente toccando? Grattandosi la testa, lasciando cadere un po' di forfara, un po' di cellule desquamate dalla testa, da quel cappelluto, e si contamina una zona con il tuo DNA, oppure anche toccando qualche cosa. Spesso noi tiriamo fuori DNA dell'aggressore dai lividi sulle vittime, proprio perché la persona, dando un pugno all'altra persona, desquama, lascia delle cellule della mano sul volto della persona, quindi dal livido avrò il DNA dell'aggressore. La certezza del DNA è possibile stabilirlo? Facciamo un esempio: ti arriva un reperto di un delitto da studiare, analizzare, quali sono in percentuale gli strumenti di certezza che tu dici, beh, tanto riesco a ottenere dallo stato di conservazione, tanto dalle tracce che ho nelle ossa, tanto dal DNA appunto, tanto da altri strumenti che magari ignoro per datare comunque il personaggio a cui sono appartenuti quei resti? Ma Allora, il DNA è soltanto uno strumento. Per esempio, quando ci arriva un cadavere decomposto, la prima cosa che chiede il magistrato è il DNA. Non serve il DNA in quel momento lì, servono altre cose. Cioè, è molto più importante, per esempio, datarlo per capire a che epoca appartiene. Prima di tutto, e come fate? Come fate a fare la prima datazione? Questa è una cosa molto difficile, nel senso che se sono soltanto resti scheletri, cioè se sono resti in decomposizione, ci sono le larve, allora l'entomologo mi sa dire più o meno quante settimane sono passate. Se sono resti scheletrici, allora dovrò applicare delle metodiche molto sofisticate di tipo chimico che vanno a vedere i residui. Sì, perché nel tuo staff ci sta anche un entomologo, ci sta anche un botanico. Sì, abbiamo botanici e entomologi, perché spesso il cadavere non parla, ma non parla più, ma parla l'ambiente intorno al cadavere. Quindi i naturalisti, come i botanici, gli entomologi sono fondamentali per riuscire a capire quando è morta la persona. Sentiamo Alessandro. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a voi. Ma io ero un grande appassionato di CSI e poi nulla, non riesco più a guardarlo perché mi sono reso conto che lì dicono sempre, trovano sempre colpevoli, assassini, tutto quello che devono trovare. Poi la realtà è ben differente, insomma è fatta di altre situazioni, tutto diventa più complicato nella realtà e le certezze che ci vogliono vendere in realtà non ci sono. Quindi lei, che è un appassionato di questo tipo di telefilm, vede che in fondo c'è un ottimismo esagerato a volte rispetto a quelle che si immagina che siano le vere possibilità di risoluzione di un problema. Sì, no, ma la realtà è ben differente, no? Ecco, quali sono le cose che la colpiscono di più, delle attrezzature che usano questi medici? Ma le attrezzature non è che mi sorprendano, io lavoro con i computer e le ritengo abbastanza plausibili. E poi quando mettono quando porto sulla realtà le loro, chiamiamole, scoperte, che diventa tutto così semplice, tutto così facile. Ah sì, questo l'abbiamo castrato. E soprattutto quello che mi fa sorridere maggiormente è che tutti confessano al primo colpo, no? Dice: guarda, abbiamo delle prove, ti abbiamo incastrato e quello crolla e vuota il sacco subito. Esattamente. Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, io sono un medico, chiamo da Bologna. Nella mia esperienza ho capito questo, che ormai siamo pieni di tutto questo tecnicismo che ci porta a trovare tracce microscopiche di millesimi, di millimetro, eccetera. Io sono appassionato di gialli anche, oltre che essere un medico, e guardo sempre il tenente Colombo. E mi sono reso conto che in realtà l'intelligenza, lei guarda il tenente Colombo, il suo protocollo d'indagine è basato sull'intelligenza, sulla sua capacità di osservare i minimi particolari che già inducono al dubbio, già dalla prima osservazione del cadavere, primo. Seconda cosa, lui con la psicologia riesce a farsi un profilo psicologico dell'eventuale assassino che lo porta poi a, oltre che identificarlo, anche a tendergli delle trappole nel caso non riesca a avere delle prove. Sì, questo è giusto, Francesco, però non è proprio il compito del medico fare questo, secondo me. Sì, no, ho capito, però il medico legale è l'investigatore che deve fare questo, sì, tipo di lavoro. Certo, ma il medico legale è un supporto. Allora, in tutti i telefilm americani l'investigatore, arriva il medico legale, dice: dammi il più presto possibile l'autopsia perché in base a quella ho gli elementi. Se lei guarda il metodo del tenente Colombo, che magari è, come dire, è esaltato perché è un film, quindi chiaramente, però voglio dire, il metodo di indagine dovrebbe essere quello. Manca la capacità, secondo me, dell'investigatore di cogliere quegli elementi che si colgono soprattutto nelle prime ore. E purtroppo questo io non so se è colpa della formazione, secondo me. No, c'è un grosso problema legato proprio all'inquinamento del teatro del delitto. Sentiamo Cristina Cattaneo rispetto a queste due telefonate, soprattutto il tuo collega. Mette il dito, mi sembra, su un aspetto abbastanza spinoso. Sono due testimonianze sacrosante che in maniera diversa espongono lo stesso tipo di problema. Cioè, per quel che riguarda il signor Alessandro, lui diceva giustamente non abbiamo le stesse risultanze di CSI e abbiamo l'effetto paradosso adesso, proprio perché crediamo troppo nel dato scientifico e non si guardano più le altre cose. Sì, tu metti in uno scanner una falange, viene fuori il volto della persona, esatto, del computer. Proprio perché si crede troppo la la scienza vengono messe da parte ciò, le cose a cui si riferisce invece mio collega, il signor Francesco, che ovviamente mette il dito nella piaga, cioè si è perso l'equilibrio tra l'investigazione, tra l'importanza dell'attività del buon investigatore e le tessere del mosaico a cui riferivo prima. Ecco. Ma voi medici forensi esponete, la domanda è retorica però mi piace sentirlo dire, esponete con chiarezza quelli che sono i limiti del vostro resoconto sul cadavere, sul luogo del delitto, a chi poi fa le indagini? Questo fa la differenza tra un buon consulente e un cattivo consulente. E io credo che gran parte degli errori di cui siamo tutti testimoni, gli errori dei macelli, tra virgolette, che sono successi in questi ultimi tempi, di cui siamo tutti testimoni, sono colpa del fatto che ci sono medici legali, scienziati forensi che lavorano in maniera diversa. Ecco, se il medico legale o altro esperto scrive una bella consulenza esponendo quelli che sono i limiti, dà delle istruzioni per l'uso al giudice perfette, cioè il giudice sa che affidabilità può dare a quel dato, e questo non spesso succede. Penso che causa di grosse incomprensioni e misunderstanding sia proprio questa cosa. Ma ti faccio un esempio, non so, metti caso, io motosego mia moglie, vengo accusato e naturalmente il magistrato chiede a te di fare l'analisi, tu dici vedi questo sì, sono le impronte di Gianluca sulla motosega, è stato lui, ma io mi pago un mio consulente legale con magari millantando strumentazioni fantascientifiche e dice esattamente il contrario. Ecco, come viene bilanciato a questo punto il peso della tua, del tuo referto rispetto a quello che produco io? Ovviamente la motivazione deve essere, la motivazione della perizia è la cosa più importante, cioè supportare le tue conclusioni con la letteratura che c'è, con le ricerche che ci sono. Io sono ricchissimo, faccio venire dagli Stati Uniti uno scienziato che ha un mega microscopio che tu non hai e ti dice che con quel microscopio si ha un dato in più, come fai a confutare questa cosa? Non basta la singola ricerca, questa è una cosa che affronto nel libro, non basta una cosa per fare, per quello che la scienza si muove in maniera pachidermica nel nostro ambito, però alla fine per diventare... Ma esiste questo paradosso che in realtà chi ha più potere d'acquisto e porta il macchinario più raffinato in realtà crea dei dubbi comunque. Ma più che macchinari più raffinati, direi chi ha più potere d'acquisto si prende il consulente più bravo, e questo è forse ancora più problematico, più difficile da risolvere. Melog 2.0. Ha una 44 Magnum. È un'arma che costa. Ah, ce l'ho i soldi. Brutta bestia sta. Ti fermo una macchina a 100 metri. Con una pallottola buca il motore. È un'arma che non perde mai di valore. Guardi che perfezione. Potrei venderla a qualche testa calda di Harlem per $500. Ma io preferisco sempre vendere a gente di qualità. Che gliene pare? Forse è un po' troppo ingombrante per essere pratica. In questo caso per lei consiglierei questa 38 2 pollici. Guardi. Robert De Niro, Taxi Driver, nel momento l'impazzimento al supermarket delle armi, si compra le sue pistole dalla 44 Magnum alla 765, che poi si attrezzerà, diventerà una sorta di cyborg, le porterà sempre con sé, inizierà il suo disegno criminoso dal suo punto di vista di riscatto del suo diritto di poter viaggiare tranquillo la notte. Abbiamo con noi questa mattina Cristina Cattaneo, che è un medico legale patologa forense, che ha scritto il suo ultimo romanzo, Certezze provvisorie, per Mondadori, dedicato appunto alle storie dei suoi morti e delle sue ossa. Cristina, ti sei fatta anche una cultura nelle armi da fuoco, prima ha parlato un coltellaio, ma fra le tante discipline, perché poche professioni sono multidisciplinari come la tua, tutti pensano che il medico forense si occupa soltanto di aprire morti e di fare autopsie, ma in realtà abbiamo visto di avere elementi di botanica, elementi di conoscenza comunque delle larve, degli animali che possono entrare in un corpo umano, elementi anche di bricolage. Ho visto che nell'angolo del tuo ufficio sono zappe, vanghe, picconi e stivali di gomma, non è che alla fine di far tanto la signorina quando inizi a dover andare a scavare una fossa per trovare i morti. Sì, però ci occupiamo anche molto di vivi, cioè uno pensa al medico legale sempre il morto, invece ci sono grossi problemi con stessi limiti sui vivi, per esempio capire se una donna è stata violentata, capire se un bambino è maltrattato, abusato, capire se quella faccia ripresa da un sistema di videosorveglianza mentre c'è una rapina in banca è il tizio che è indagato, e anche qui ci sono grossi problemi. Questo è interessante, problemi. Come fate? Sempre anche ultimamente si è visto la ricostruzione di una rissa di un ragazzo che è andato in coma, l'ho vista ieri pomeriggio in televisione, poi siete voi che definite bene come è avvenuta quell'immagine, che poi sono sempre video molto poco definiti. Esatto, e questo è quello che io definisco un po' il far west medico legale, cioè per poco è ancora peggio il problema del consulente e dell'errore dei limiti del metodo che rispetto al morto, perché spesso si pensa che da un'immagine, giustamente come dicevi tu, molto sfocata a CSI o magari nelle fiction, vediamo che man mano che si ingrandisce l'immagine è sempre meno sfocata. Sì, non so come fanno ad aggiungere pixel delle immagini, esatto, dammi più definizione, improvvisamente diventa una foto in alta definizione. Esattamente, e diciamo che da un punto di vista scientifico, questo è un ambito molto interessante da un punto di vista proprio della ricerca, perché ci sono tante cose che si stanno muovendo, ma al momento non ci sono protocolli fissi per identificare le persone in questo modo, quindi è una zona con grossi grigi, per cui a volte è possibile, ma tante volte non è possibile. Vi basate ancora sui rapporti, sulle misure? No, quelli sono stati sfatati da circa 5-6 anni, questa cosa delle misure, della craniometria, dell'antropometria è stata ormai messa morta e sepolta, si basa su ricostruzioni tridimensionali e confronti di forme del volto, ecco. Sentiamo Gerdi, buongiorno. Buongiorno, sono un ex ufficiale della polizia albanese e volevo intervenire per quanto riguarda l'attività di indagine. Lei in che periodo ha operato nella polizia albanese? Scusa? In che periodo hai lavorato nella polizia albanese? Niente, io ho lavorato come docente nell'Accademia della Polizia, poi dirigente... Sì, ma quanto tempo fa, per capire se in questa ultima fase o diciamo ai tempi ancora... No, dal 95 fino al 2007. Ecco, cos'è da aggiungere allora, rispetto a quello che abbiamo detto? Niente, è tutto vero quello che dice la dottoressa, lo saluto. Ho sentito prima interventi di colleghi, di ex poliziotti, ma anche del medico che è intervenuto 5 minuti fa. Quello che volevo dire è che a questo dell'indagine deve essere sempre il poliziotto o l'investigatore, perché ci sono, secondo me, tre pilastri nell'attività di indagine: l'intuizione, o il sesto senso che devono avere gli investigatori. Che è l'esperienza anche da questo. Sì, l'esperienza, ma è un sesto senso, nel senso che per capire i movimenti dei criminali, anche le altre cose. La procedura, quello che deve seguire un investigatore, cominciando dalle regole, seguire le regole, la procedura che hanno nella polizia, cominciando dal luogo del delitto, conoscenza del quartiere, del territorio dove svolgono l'attività criminali, i gruppi criminali o i vari tipi di questi delinquenti. E la terza cosa, quella che ha fatto o ha portato la svolta nell'attività dell'indagine, è la polizia scientifica, che in questo caso deve essere sempre un supporto praticamente per un investigatore, perché succede spesso che un investigatore, un poliziotto, per facilitare le sue cose va subito dalla scientifica e chiede mille cose, questo per facilitare magari la sua attività di indagine. È quello che ci diceva prima l'altro ascoltatore, anche lui ex agente di polizia, dice in realtà non possiamo soprassedere sul fatto che siamo noi che dobbiamo avere il colpo d'occhio e capire la scena del delitto, troppo facile affidarsi semplicemente al medico legale o al collega della scientifica. Grazie Pierluigi, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo chiedere soltanto una curiosità. Leggo spesso nelle cronache che la polizia scientifica torna diverse volte sul luogo del delitto per recuperare gli elementi che gli servono, anche a distanza di mesi, di parecchi mesi. Ma questo vorrei capire come mai, se si dimenticano qualcosa oppure qual è il problema che non possono rilevare tutti gli elementi. È chiaro, sentiamo Cristina Cattano, partendo da quest'ultima domanda. Dice, ecco, come mai tornano dopo un mese, ma dopo un mese avrà piovuto, sole, vento, cani, non sì, c'era certo, stato di tutto. Certo. Premetto che io non sono della scientifica, posso parlare perché certo, noi stessi, come medico legale, perché è necessario. Allora, vabbè, o può essere necessario perché c'è stata una dimenticanza o perché non si è lavorato bene nella prima volta, non si è fatto tutto ciò che bisognava fare, oppure perché emergono nuove esigenze. Per esempio, a volte si può tornare su una scena proprio perché si capisce con l'andare delle indagini che è necessario fare una ricostruzione dinamica di come si sono sparsi dei schizzi di sangue. Per fare questo io devo fare una ricostruzione virtuale del posto, allora devo andare con una tecnologia particolare, con delle macchine particolari per ricostruire, per far dei rilievi, per ricostruire l'ambiente, cosa che pensavo non necessaria in un primo tempo. Ma per quanto riguarda le tracce, i reperti organici, non si trova più nulla dopo tanto tempo? No, le tracce, il problema è che le tracce rimangono tantissimo tempo l'unica problematica in più che si aggiunge chiaramente la contaminazione, perché più passa il tempo più c'è il rischio di contaminare la scena. Ci sono mai stati casi in cui, diciamo, o l'inesperienza o la poca accortezza di chi si recava per primo sul teatro del delitto avesse creato problemi poi nella confusione, nel reperimento delle tracce? Mi sembra che sia un po' la causa dei più grandi ed insoluti delitti televisivi di questi ultimi anni, che c'è stato un tal casino che alla fine non si capiva più nulla. Sì, secondo me il casino, come dici tu giustamente, è dovuto poi anche all'interpretazione dei dati e l'importanza che dà il dato singolo, che è il problema di cui parlavamo prima, ma sicuramente ogni tanto un po' di problematiche la prima volta che vai sul posto. Io posso dire anche cose che sono successe a noi abbiamo sbagliato a volte nelle scene esterne, per esempio il morto all'interno nell'ambiente chiuso è molto ben conosciuto, il morto è nel bosco è molto più difficile da protocollare, e spesso è successo che pensi dopo che magari dovevi vedere che pollini c'erano vicino a quel cadavere e non l'hai fatta. È cambiata stagione nel frattempo, esatto, è molto difficile. Bravo, grazie bravo. Cristina Cattaneo, ringrazio grazie anche Valerio Rocchetti e Fabrizio Intonti, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.